Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho detto cacca perché sono educato. Di cacca, di palta, di fango. Beh, ieri due cose hanno chiesto. Alfano ha detto dateci una mano sull'immigrazione, picche. Renzi ha detto fateci spendere i soldi per gli investimenti, picche. Basta, colpito affondato, ritirati. E questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è Matteo Salvini, segretario della Lega, che parlava, ha detto proprio testualmente, due figure di cacca per quanto riguarda Alfano e Renzi, e questa era insomma la sua critica. Questo per iniziare con un po' di colore, come sempre, a effetto notte, però gli argomenti saranno altri. Fra i vari parleremo anche della morte del 14enne a Napoli per il crollo di un pezzo di cornicione sotto la galleria Umberto I, che è il salotto un po' della città di Napoli. E la domanda è: si può morire davvero così a 14 anni perché uno sta passando insieme agli amici il sabato sera sotto un monumento storico e poi nessuno si prende tra l'altro la responsabilità? Chi doveva prendersela prima? Chi doveva prevenire questo incidente? Ne parleremo col vice sindaco di Napoli e anche con l'avvocato della famiglia della vittima. Poi molti altri temi, e per voi lo sapete c'è sempre il modo di intervenire attraverso gli sms al 349-238-6666 oppure attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, dove vedo già molti messaggi a proposito delle dichiarazioni dell'europarlamentare Bonanno della Lega, nonché sindaco di Borgosesia, che ha detto vedremo come fare una legge nella mia cittadina per multare le persone dello stesso sesso che si baciano, cosa che ha scatenato molte polemiche, anche i vostri commenti. Ma direi di cominciare a raccontare in sintesi la giornata. Medio Oriente, il presidente israeliano Peres minaccia Hamas, dice se non ferma i razzi a breve comincerà l'offensiva di terra. Riforme, domani saranno in aula, cambia l'elezione per il Quirinale e sul nuovo quorum per il referendum è già scontro. L'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio, due le vittime a Tagliacozzo, vicino all'Aquila, il sindaco dice abbiamo visto una nuvola spaventosa. La morte del 14enne colpito dai calcinacci, lutto cittadino a Napoli. Mondiali dopo il tracollo del Brasile, il paese processa la squadra e questa sera alle 22 ci sarà Argentina-Olanda che eleggerà l'altra finalista. E partiamo quindi dalla situazione di estrema gravità in Medio Oriente, con l'ultimatum del presidente israeliano Peres, che ha detto i tempi dell'escalation sono a breve, in 48 ore di raid aerei si contano già 43 morti tra i palestinesi. Peres ha detto l'offensiva di terra potrebbe esserci molto presto, ma se i razzi di Gaza si fermeranno stanotte non ci sarà alcuna offensiva di terra, però di questo torneremo a parlare più tardi, effetto notte. Intanto l'italiano Staffan de Mistura sarà il nuovo inviato speciale ONU per la Siria, questo lo riferisce la TV panaraba Al-Arabiya citando fonti delle Nazioni Unite. De Mistura succede a Lakhdar Brahimi. Ma passiamo adesso alla politica italiana. Domani in Parlamento si voterà sulle riforme, cambia il modo in cui viene eletto il capo dello Stato. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al testo sulle riforme che modifica il quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, spostando dal quarto al nono lo scrutinio nel quale è sufficiente la maggioranza assoluta. L'emendamento presentato dal senatore del PD Gotor è stato approvato con il parere favorevole del governo e dei relatori. Per il referendum invece sale dalle 500.000 firme attuali a 800.000, il numero di firme necessarie quindi è diventato molto più alto per proporre un referendum abrogativo. Questo è quanto prevede l'emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. I relatori avevano inizialmente addirittura proposto 1 milione di firme e su questo però già si è acceso molto lo scontro. Poi sulla riforma del Senato al momento tiene il patto del Nazareno e Grillo protesta, è un salvacondotto per Berlusconi. Questo in sintesi la giornata politica. Adesso la cronaca con l'incidente nella fabbrica di fuochi d'artificio a Tagliacozzo in provincia dell'Aquila. Hanno fatto tremare la terra nel raggio di alcuni chilometri le esplosioni che nel primo pomeriggio hanno di fatto raso al suolo la fabbrica di fuochi d'artificio alle porte di Tagliacozzo. In molti nel paese hanno pensato ad un terremoto. Le squadre di soccorso intervenute immediatamente hanno estratto dalle macerie 3 feriti subito portati in ospedale, 2 i morti accertati, ma c'è anche un disperso. Fra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente il sindaco Maurizio Di Marco Testa. Sono scoppiate tutte queste cosiddette casamatte, dove c'erano queste sostanze, queste polveri, non esistono più, sono rimaste solo le voragini, non esiste più nulla, è un campo di battaglia. Ci sono state ingenti nella zona limitrofi che però sono stati subito spenti, la botta è talmente forte che ci sono stati rotture di vetri, addirittura porte interne che sono saltate, le abitazioni a distanza di 700-800 metri. Le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti, ancora da accertare le cause delle esplosioni. La fabbrica era considerata sicura e aveva superato due ispezioni nel 2011 e nel 2013. Quello di Tagliacozzo è il terzo incidente del genere avvenuto in Abruzzo negli ultimi 15 anni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E queste nuove vittime arrivano tra l'altro proprio nel giorno in cui l'INAIL ha diffuso i dati sulle morti sul lavoro nel 2013. Le vittime l'anno scorso sono state 660, in ribasso, almeno questa è la notizia, di circa il 21% rispetto all'anno precedente. Si tratta di un nuovo minimo storico, per fortuna, anche se ci sono sempre. E parlavamo prima di questo fatto di cronaca che affronteremo poi dopo. È morto il 14enne, ferito gravemente sabato scorso da un fregio staccatosi nella galleria Umberto I di Napoli, città naturalmente sotto shock, mentre si cercano con molta difficoltà, per una questione di competenze molto intricate, i responsabili dell'abbandono dello storico monumento. Lutto cittadino a Napoli, a Marano, per la morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni morto in seguito al crollo dei calcinacci nella galleria Umberto a Napoli. Famiglia e legali chiedono giustizia, così come Don Luigi Merola. Speriamo che non finisca qui, ha detto, ma che ci sia un risvolto serio. Le responsabilità vanno accertate. Sui cornicioni del monumento ci sono ancora calcinacci che potrebbero cadere da un momento all'altro, così come i lampioni non sembrano correttamente assicurati. Una morte inaccettabile. La città è scossa da questa tragedia, ha detto il sindaco De Magistris, che ha disposto subito bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Rimpallo di responsabilità. Privati, comune, sovrintendenza. La galleria Umberto I di Napoli è la gemella di quella di Piazza Duomo a Milano, salotto della città, appellativo che per il monumento partenopeo non è comunque adatto. Sotto le volte ci sono negozi di abbigliamento, caffè, il cuore della città, questo sì, a due passi da Piazza del Plebiscito e dal lungomare. Il monumento venne ultimato nel 1890 nell'ambito del progetto Risanamento, che ridisegnò intere parti della città. 9 condomini insistono oggi all'interno della galleria, appartamenti che ospitano soprattutto uffici e qualche privata abitazione. A chi spetta la manutenzione dei fregi che adornano i palazzi? Al comune, secondo gli amministratori dei condomini interessati, che richiamano documenti del 1890 in cui si precisa che la galleria è pubblica. Già ci sono stati crolli, spesso, crolli che hanno scheggiato i vetri della storica pavimentazione, crolli di fregi ma anche delle vetrate che coprono il tetto dal quale passava la pioggia. Un mese e mezzo fa lo stesso tratto di strada dal quale si è staccato il fregio che ha ucciso Salvatore era transennato. Il nuovo crollo è avvenuto poco più in là, probabilmente sotto l'arco d'ingresso, che non insiste su nessuno dei due condomini adiacenti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi ho detto, ne parleremo col vice sindaco di Napoli e con l'avvocato della famiglia del 14enne, perché è veramente una storia terribile, insomma, in un paese in cui appunto c'è molta ignavia rispetto a quello che succede, alla manutenzione che sia idrogeologica dei monumenti, eccetera. E poi qui in questo caso davvero sarà complicato, come vi dicevo, la procura ha aperto un'inchiesta, ma capire di chi sono le responsabilità. Adesso passiamo invece alla processione con l'inchino al boss dei giorni scorsi. Sono state identificate le persone che portavano la statua della Madonna delle Grazie durante la processione di Oppido Mamertina in Calabria, con l'inchino vicino l'abitazione del boss condannato all'ergastolo e ai domiciliari per motivi di salute. Sono persone che non appartengono a organizzazioni o congregazioni religiose, ma scelte tra un gruppo di volontari. Tra i 25 c'è chi ha dato l'ordine proprio di fare l'inchino. E adesso occupiamoci di maltempo, perché a Milano c'è ancora preoccupazione per nuove possibili piogge con le conseguenti probabili esondazioni. Sulle sponde di strade trasformate in fiumi ora riemergono carcasse di auto, barricate di elettrodomestici e l'acqua che ha sommerso la zona nord-ovest di Milano restituisce ora pure due corpi. Quello di una donna ottantenne che si sarebbe tolta la vita ad Insago e quello per ora solo avvistato di un uomo nelle acque dell'Ambro. Dopo il Seveso si nasconde dietro il nome dell'altro fiume cittadino la paura di Milano, dietro i livelli di una piena gonfiata ancora dalla nuova perturbazione che rende difficile le ricerche del corpo, quasi certamente di un uomo, risucchiato poi da un mulinello, come raccontato da due operai testimoni. Non ci sono denunce di scomparse, difficile quindi capire al momento se sia una vittima dell'ultima esondazione o piuttosto un suicidio. Di sicuro ora, asciugata l'acqua da strade e cantine, emerge dal fango la rabbia dei milanesi, quasi per nulla mitigata dalle scuse del sindaco. C'è una situazione di probabile pericolo qua, che potrebbe crollare un altro muro, ne è appena crollato uno qua. Non possiamo più di subire sempre le stesse cose. Lo voglio proprio vedere, se in pieno Expo succede una roba così. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso invece chiudiamo con lo sport, con i mondiali dopo il tracollo del Brasile. Questa sera Argentina-Olanda, che come dicevo deciderà l'altra finalista. Hanno già pianto tanto, ma da stasera potrebbero piangere ancora di più i tifosi brasiliani, perché al tracollo della Seleção potrebbe sommarsi il successo dell'Albiceleste, ossia di quegli argentini che tra Rio e San Paolo chiamano Los Hermanos, i fratelli, ma di cui davvero non potrebbero sopportare, soprattutto ora, un trionfo al Maracanã. Meglio sarebbe ritrovarseli di fronte sabato a Brasilia, nella platonica finale per il terzo posto, per cercare una vittoria che saprebbe almeno di riscatto, seppur parziale. A decidere il destino comunque amaro del Mondiale Verde-Oro, il verdetto che arriverà stasera da San Paolo, con l'Argentina della Pulce Messi che si giocherà contro l'Olanda la possibilità di sfidare i tedeschi per la Coppa. Incrocio sempre pepato, quello tra arancioni e albiceleste, nel ricordo della finalissima del 1978 a Buenos Aires, quando gli argentini vinsero ai supplementari sotto gli occhi del dittatore Videla in tribuna. Prima e dopo vittorie degli Orange, ma quella ferita brucia ancora. A riscattarla ci proveranno Schneider e Robben, o magari quel demonio di Van Gaal, pronto a pescare ancora i guantoni del pararigori Krull in panchina, sempre che la Pulce sia d'accordo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il ciclismo dopo il calcio, con Vincenzo Nibali protagonista al Tour de France. La vittoria nella quinta tappa va all'olandese Lars Boom, ma chi impressione è proprio Nibali, che sul pavé rafforza la sua maglia gialla e ipoteca una bella fetta della vittoria finale. Male Contador, che chiude a 2.33 dalla maglia gialla, è ritirato il vincitore dello scorso anno, il keniano Chris Froome, penalizzato da cadute e da ripetizione. Sentiamo Nibali nel dopo tappa, proprio su Froome e Contador. Il tour è questo, ci sono anche questi inconvenienti, ci sono le cadute, forse lui non è mai tenuto conto di questo, e io già ho fatto a mie spese in passato anche il Giro d'Italia con una tappa come quella di Montalcino. Il ciclismo è questo, è un vantaggio molto buono, però ancora il tour è molto lungo, bisogna restare con i piedi per terra, e sappiamo tutti che tolto Froome ora Alberto è l'uomo da controllare proprio da molto vicino, quindi sempre da tenere in considerazione anche se abbiamo 2 minuti e 35 di vantaggio. Stavo guardando alcuni vostri messaggi, però lo spazio dopo, sia gli sms al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note. Nel frattempo, ecco perché ho gli occhi che vanno da un computer all'altro, vedevo questo aggiornamento che riguarda la striscia di Gaza. Nuovo bilancio, sono 52 i morti in questi 2-3 giorni di attacchi feroci, 450 i feriti. Poi vediamo se ci sono altri aggiornamenti. Comunque di questo argomento ci occuperemo più tardi in modo più approfondito. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, dice Giorgio a Torino, mi scusi, sono diminuiti gli incidenti ai lavoratori, ma perché raccontate queste palle? Veramente questa è una, sono dati dell'INAIL, non è che ce li siamo inventati qui al momento. Però vi ricordo, prima di affrontare il primo tema di questa sera, quali sono state le notizie più importanti di questa giornata? Venti di guerra a Gaza, il presidente israeliano Peres dice stop ai razzi, invadiamo la striscia, dei missili palestinesi sfiorano la centrale nucleare israeliana di Dimona, però per fortuna non la colpiscono. Domani ci saranno, per quanto riguarda la politica italiana, le riforme in aula, cambia l'elezione per il Quirinale e per il referendum ci vorranno 800.000 firme. Draghi dice serve governance in Unione Europea sulle riforme strutturali, poi cercheremo di capire che cosa significa questa dichiarazione. dichiarazione. Esplode in Abruzzo una fabbrica di fuochi, due morti e un disperso. Nel 2013 è successo a Città di Sant'Angelo e in questo caso di questo scoppio attuale hanno parlato le persone, i cittadini, come quasi di un terremoto, tanto è stata forte il tremore della terra. E allarme Banca Italia per l'aumento delle operazioni sospette, si chiede più controllo in particolare sui politici. Poi la vergogna del Brasile, il paese processa la squadra e stasera ci sarà Argentina-Olanda. Quindi parliamo di questo fatto di cronaca così drammatico a Napoli. Dopo 5 giorni di agonia è morto Salvatore Giordano, il ragazzino di 14 anni colpito dai calcinacci caduti dalla galleria Umberto I, proprio in centro a Napoli lo scorso sabato, praticamente colpito da pezzi di cornicione caduti in pieno centro, nelle zone dello struscio dei napoletani, in particolare anche degli adolescenti il sabato. L'inchiesta avviata dalla procura partenopea si annuncia però particolarmente difficile, complicata, intricata, perché deve far luce in questo ginepraio di competenze tra il comune, le soprintendenze, i privati, perché ci sono dentro delle abitazioni private che fanno parte, che costituiscono questa galleria. I proprietari del monumento, quindi delle sue tante frazioni, sono effettivamente molti e la manutenzione bisogna capire a chi spetta. Allora io saluto il vice sindaco di Napoli, che ringrazio per essere stato disponibile, Tommaso Sodano. Buonasera. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Ecco, la ringrazio di avermi ringraziata anche perché vorrei che lei desse la sua versione, nel senso che qui le polemiche sono subito naturalmente scoppiate. È morto un bambino di 14 anni solo per aver fatto un po' di passeggio con gli amici sotto un monumento storico e adesso la procura ha aperto un'indagine. Molti si sono accaniti nei confronti del sindaco De Magistris, no, perché dicono appartiene, è un monumento storico pubblico e quindi è l'amministrazione cittadina che se ne deve occupare di prevenire che ci siano crolli di questo tipo, di mettere in sicurezza le cose che sono a rischio. Ma innanzitutto chiaramente questo è il momento di dolore per la morte di Salvatore. È stato indetto il lutto cittadino anche la nostra città, come la città natale di Salvatore, che è il comune di Marano, e quindi insomma credo che anche le polemiche di questi giorni in alcuni casi hanno sfiorato lo sciacallaggio, con tanti opinionisti che si sono lasciati andare a giudizi rapidi, anzi più che giudizi a sentenze, senza ancora aver visto le effettive responsabilità. C'è un'indagine della magistratura e noi siamo fiduciosi, abbiamo dato tutto il supporto con le informazioni e la documentazione richiesta dalla Procura di Napoli, e sarà la magistratura a accertare le responsabilità. Detto questo, la galleria Umberto di Napoli dal 1886, quando fu realizzata e fu consegnata alla città di Napoli, con chiarezza individuava le proprietà. Il comune di Napoli è proprietario del pavimento e del tetto, della copertura, della tettoia in vetro e metallo. Tutto il resto è patrimonio privato e nel corso degli anni ci sono stati gli interventi di manutenzione dei condomini, e anche di recente, proprio il 12 maggio, c'era stato sul lato opposto dove c'è stato il crollo di un fregio della parte alta della voluta, della parte alta del frontale, e dicevo sulla parte sinistra, quindi guardando la galleria, c'erano stati i calcinacci, e in quel caso, come è la legge che lo prevede, intervengono i vigili del fuoco e chiamano la protezione civile, che interviene a sua volta per la messa in sicurezza immediata, per il transennamento e per la diffida che viene fatta ai proprietari, al condominio. In quel caso 12 maggio è stata fatta e già il 22 maggio c'è il certificato di eliminato pericolo. E questa è la procedura, poi ripeto, insomma, ad altri la valutazione. Il comune non può agire su proprietà privata. Può appunto fare delle diffide quando si evidenziano dei pericoli, e successivamente alla diffida, se non dovesse ottemperare, si fa un'ordinanza. In genere è sempre accaduto così. Noi solo nell'anno scorso abbiamo fatto oltre 700 ordinanze a privati per la messa in sicurezza degli edifici, già 425 dall'inizio di quest'anno sono state fatte. Questa è la procedura, dopodiché è talmente odioso in questo momento, appunto davanti alla morte di un bambino, a chi ci ascolta, insomma, dà fastidio a me stesso parlare, perché insomma chi ascolta può pensare che siamo alla logica dello scaricabarile, però questa è la ricostruzione nostra, e abbiamo fatto riunioni in questi giorni continue con tutte le direzioni del comune, ci hanno portato tutta la documentazione e non ci sono segnalazioni specifiche, dopodiché, se, ripeto, da parte nostra se c'è una responsabilità di chi che sia è giusto che ci sia giustizia, perché non può accadere che una persona possa morire mentre sta passeggiando. Certo. Vice Sindaco Sodano, però lei mi diceva che già anche le cronache lo riportavano, che già una cosa del genere era successa il 12 maggio scorso, che si era parlato appunto di questa cosa, di allarmi inascoltati. Lei però mi dice che invece erano intervenuti i pompieri. Però al di là di questo, che mettiamo che sia effettivamente, poi dice lei giustamente, decideranno i magistrati, che sia una competenza di privati, però non è, la legge non prevede che il responsabile dell'incolumità pubblica sia il sindaco, quindi l'amministrazione pubblica, che a cui spetta comunque l'obbligo di prevenire i pericoli. Quindi lei dice fate delle diffide, però poi vi accertate che le opere vengano portate a compimento. Nel caso in cui non dovessero intervenire, il comune può agire in danno con una procedura molto lunga, però lo si fa. Il problema è che qui non siamo davanti a un segnale rispetto al quale c'è stata una diffida, il condominio non è intervenuto e quindi il comune avrebbe dovuto intervenire in danno. Del resto poi qui si riporta a un tema più generale che riguarda Napoli, ma riguarda anche le altre grandi città, insomma, quella che è la manutenzione del patrimonio pubblico e privato, che, cioè, se un paese come il nostro per un'esondazione del fiume del Seveso come avvenuto a Milano o per le piogge battenti ci sono gli allagamenti, c'è un tema che riguarda la fragilità del nostro territorio, riguarda anche la fragilità degli edifici pubblici e privati su cui non sempre c'è la manutenzione. In questo caso specifico però noi non siamo davanti a un edificio fatiscente di una periferia degradata dove magari i proprietari sono dei senza reddito rispetto ai infatti, quali infatti, e quelli a volte possono sfuggire dal controllo, però il centro caso, del centro di Napoli abbiamo, tra i proprietari ci sono banche, grandi esercizi commerciali, immobiliari, quindi voglio dire, nel momento in cui ci sono degli interventi e c'è la diffida, fino ad ora gli interventi erano stati eseguiti, insomma è in corso ad esempio un altro lato della galleria, c'è un'intera facciata che si sta rifacendo dal mese di gennaio, completeranno i lavori in questi giorni, quindi voglio dire, poi ci sono anche altro tipo di valutazione, ripeto, sto a quello che mi dicono le direzioni, se qualcuno dovesse dimostrare che c'è stata una segnalazione inascoltata ci saranno le responsabilità di chi ha omesso l'intervento, a noi questo oggi non risulta. Chiarissimo, Vice Sindaco. Allora io coinvolgo e saluto l'avvocato Angelo Pisani. Buonasera Pisani. Sì, buonasera a tutti. Che è legale per la famiglia di Salvatore Giordano. Ha sentito che cosa ha detto il Vice Sindaco Sodano? Certo, ho sentito, saluto anche il Vice Sindaco, ma il problema è un po' più ampio, anche se in questo momento realmente occorrerebbe fare silenzio nel rispetto del dolore di questa famiglia che ha sacrificato un bambino purtroppo per un concorso di responsabilità. Non è giusto, come dice il Vice Sindaco, paragonare un fiume a un edificio, assolutamente non può essere questa la risposta da parte delle istituzioni, perché questi edifici, specialmente quelli del centro di Napoli, dovevano essere controllati e non mi risulta che siano stati eseguiti degli interventi, perché se fosse stato fatto un intervento sicuramente la pietra o il cornicione non sarebbero caduti. Lì c'è un problema di responsabilità documentali, tra l'altro chiare, dell'amministratore, quindi della proprietà del sito da cui si è staccato il cornicione, e soprattutto c'è una grandissima responsabilità di coloro i quali erano tenuti al controllo, all'eliminazione del pericolo e non solo alla diffida a eseguire i lavori, ma anche ad eseguirli in danno, perché fin quando non si eseguivano quei lavori in quella strada non si doveva permettere a nessuno di circolare, e invece circolano migliaia di persone. Noi abbiamo avuto una tragedia, ma purtroppo devo dire che poteva essere anche una strage, quindi non si tratta di responsabilità penali del sindaco, che assolutamente non ci sono, ma si tratta anche di una responsabilità politica sulla sicurezza della città. Purtroppo Napoli, come tante altre città italiane grandi, hanno gravi pericoli che sono le strade, gli alberi, appunto i palazzi fatiscenti. La galleria Umberto è l'esempio di quanti pericoli ci sono nella città, perché se noi alziamo la testa e guardiamo i cornicioni di tanti altri palazzi, vediamo che questo pericolo è ovunque, e quindi questo sacrificio enorme, questo dolore enorme della scomparsa di Salvatore deve essere un monito, un richiamo a tutti, anche a me stesso, affinché tutti quanti facciamo uno sforzo incredibile, nonostante ovviamente la crisi economica e la mancanza di fondi, ma non si può pensare ai costi di fronte alla vita umana, e quindi le istituzioni hanno il dovere di eliminare i pericoli e di tutelare la salute dei cittadini, perché questo è quello che prevede la nostra Costituzione e soprattutto la sensibilità e il cuore di tutti, come anche penso quello del vice sindaco Sudano, che in questo momento sta a difendere un'amministrazione che purtroppo non ha responsabilità penali, ma ha grandi responsabilità di gestire una città che in questo momento è molto pericolosa. Sudano, ha sentito cosa dice Pisani, quindi non prevede, non immagina una responsabilità penale per De Magistris, il sindaco di Napoli, però una responsabilità politica. O vogliamo dire, Sudano, che prima Pisani diceva basta guardare in alto e vedere tante parti di palazzi, di cornicioni a Napoli e si immagina che cosa possa succedere. Si vuole dire onestamente, si getta la spugna, perché è troppo quello a cui bisogna porre attenzione, rimedio, opere che bisognerebbe fare, eccetera, interventi, oppure che cosa risponde lei? No, assolutamente non. Innanzitutto l'avvocato Pisani prima ancora che avvocato, è presidente di una municipalità, quindi è un amministratore di questa città e conosce bene le difficoltà che ci sono. E il tema della sicurezza dei fabbricati è un tema di cui spesso si parla in Italia quando ci sono le tragedie e poi se ne dimentica, perché occorrerebbe il famoso fascicolo del fabbricato, che dovrebbe essere, come dire, la fotografia, dovrebbe dare la certezza dal punto di vista sia della staticità sia appunto degli eventuali rischi. Ripeto, in questo caso a me non piace fare i processi sui giornali o alla radio. La ricostruzione dell'avvocato Pisani non è corretta, perché in questo caso noi non abbiamo avuto segnalazioni, e dove ci sono state le segnalazioni si è eseguita esattamente la procedura così come la indicava l'avvocato Pisani, cioè la diffida all'ordinanza, se non interviene il privato interviene il comune in sostituzione, pur essendo comuni che non hanno risorse, ma lo si fa perché la sicurezza viene prima dei bilanci degli enti, quindi su questo io sono assolutamente d'accordo. Il tema è che nel caso di specie non c'era segnalazione, il condominio aveva fatto dei lavori nel 2009 con la presentazione anche del certificato di eliminato pericolo, rispetto al quale non avrebbero dovuto esserci poi altri, se non l'imponderabile, non avrebbero dovuto esserci altri fenomeni come quelli che invece sono accaduti. Sudano, mi dica una cosa però, io non so bene come funziona, non mi occupo, non faccio questo mestiere, però in genere rispetto a una zona anche così centralissima di una città e di una città importante come Napoli, c'è bisogno di ricevere segnalazioni o ogni tanto bisogna monitorare anche la situazione? Non so come funziona. Sì, ma qui stiamo parlando a un'altezza della galleria, siamo a diverse decine di metri, quindi non basta alzare l'occhio al cielo, bisognerebbe fare dei controlli aerei, controlli a quell'altezza, quindi non è un'operazione facile, una città di 1 milione di abitanti, poter controllare tutti i cornicioni, che ripeto è un obbligo del proprietario dell'immobile. Il proprietario dell'immobile, se ha difficoltà in quel momento, non ha le risorse per rifare la facciata o rifare il cornicione, lo deve mettere in sicurezza. Quindi poi insomma, in questo momento che si voglia spostare la responsabilità di un immobile di privato sul pubblico, beh, è un gioco facile, ma è un gioco scorretto, perché non è esattamente questa che sono le non è questo che può fare il comune. E ripeto, sulla galleria c'è una grande attenzione, tant'è vero che negli ultimi anni ci sono stati sempre segnalazione di sfide e interventi, quindi non è una galleria su cui non si è intervenuto. Chiedo proprio questo ultimo minuto che ci rimane all'avvocato Pisani. Ha sentito, dice il vice sindaco Sudano, non ci sono state segnalazioni, non ci risulta che ci sono state segnalazioni di rischio. ma purtroppo il vice sindaco vuole difendere una posizione indifendibile. In questo momento non è il momento appunto del processo, ma è il momento del silenzio e del rispetto della famiglia. Ma basta leggere i giornali napoletani, il Corriere del Mezzogiorno, il Mattino, per verificare quanto 30 giorni fa ci sono le fotografie e i video per la galleria dove cadevano cornicioni da tutti i lati, anche a 2 metri da quello che è caduto appunto sabato scorso. Quindi purtroppo mi rendo conto che per un amministratore è impossibile o difficile andare a controllare tutti i cornicioni, ma esistono autorità competenti, ufficio sicurezza, polizia municipale, vigili del fuoco, sovrintendenza, che sono signori che vengono pagati dai cittadini, che hanno un grande stipendio per fare il loro dovere, e in questo caso purtroppo qualcuno o ha omesso o è stato poco diligente nel controllare e nel evitare questo pericolo, solo delimitando la zona ed evitando di fare passare dei bambini, dei turisti. In quel punto passano migliaia di persone e solo per fortuna non c'è stata una strage, ma quella galleria cade a pezzi da anni. E sicuramente le istituzioni, ma anche il Ministero, che avevano il dovere di tutelare questo patrimonio artistico, non lo hanno fatto. Questo è sotto gli occhi di tutti. Poi fare un processo in questo momento, certo, è veramente inutile, perché no, è la vita di un bambino che dovrebbe insegnare a noi adulti, a tutti, e lo dico anche a me stesso, come appunto bisogna essere attenti e scrupolosi e non lasciare nulla al caso. Naturalmente... purtroppo si muore anche per alberi che cadono in testa alle persone, si muore nelle buche statali, ma come tutte le grandi città. Quindi è veramente obbligatorio per tutti noi oggi cambiare passo e cercare di eliminare i pericoli per evitare delle tragedie. Pisani, effettivamente, allora qui ho voluto sentire giustamente per le ascoltatrici e gli ascoltatori le parti su un fatto di cronaca così tremendo e così di attualità. Il vice sindaco Sodano ha detto qual è la sua versione, il suo punto di vista su quello che è successo, lei che è l'avvocato di parte ha detto la sua, e poi naturalmente, come ricordava Sodano, sarà la procura a determinare quelle che saranno le responsabilità. Grazie vice sindaco Sodano e grazie avvocato Pisani. Io stavo già voluto dire che io non difendo pregiudizialmente nessuno, chiediamo l'accertamento della verità, noi non abbiamo tesi da difendere. Benissimo, vedremo cosa decide la procura. Grazie ancora, buona serata. Adesso dobbiamo fermarci proprio perché c'è una pausa, ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vedo i vostri messaggi a proposito del fatto di cronaca di cui abbiamo parlato, delle responsabilità difficili da identificare almeno per il momento. Qualcuno dice, vi ricordate quello che è morto a Siena durante una cena perché si è staccato un pezzo di cornicione? Come è finita quella storia? Purtroppo non ricordo. Stelio invece dice, 10 giorni fa è caduto un albero comunale nella mia villetta, tragedia fortunatamente sfiorata, nessuno si è scusato dal comune. Poi Renato, voglio solo ricordare che il crollo di un muro a Pompei, per quel crollo l'attuale ministro Franceschini chiese ottenne le dimissioni del ministro Bondi, purtroppo gli amministratori di sinistra non hanno mai colpe. Insomma, vari punti di vista, però adesso vi ricordo quali sono stati velocemente i fatti della giornata, perché poi voglio trattare un argomento importante di esteri, del Medio Oriente. Il presidente israeliano Peres minaccia Hamas, se non ferma i razzi a breve comincerà l'offensiva di terra, tra poco ne parleremo. Le riforme domani saranno in aula, cambia l'elezione per il Quirinale e sul nuovo quorum per il referendum è già scontro. L'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio a Tagliacozzo, vicino L'Aquila, 2 vittime e un ferito, e poi la morte del 14enne colpito dai calcinacci a Napoli di cui abbiamo appena parlato, ci sarà il lutto cittadino. Ai mondiali, dopo il tracollo del Brasile, questa sera Argentina-Olanda per eleggere l'altra finalista. Dicevamo quindi che è sempre più alta la tensione tra Israele e Gaza, nonostante decine di morti e oltre 300 feriti, questa tregua pare ancora molto lontana, anzi dicevamo che c'è l'ultimatum del presidente israeliano Peres che ha detto ad Hamas, attenzione, se non fermate i razzi ci sarà a breve un'operazione di terra, e potete immaginare quali siano i rischi. Ne voglio parlare con Alessia Lautone, direttrice responsabile dell'agenzia di stampa ADN Cronos. Ciao Alessia, buona serata. Ciao, buonasera Roberta. Ciao Alessia. Leggevo adesso che c'è il nuovo bilancio nella striscia di Gaza, 52 morti, 450 feriti nei 2 giorni di raid israeliani. Qui c'è effettivamente un rischio molto vicino di guerra, dalla quale poi non si sa come tornare indietro, penso Alessia. Sì, pur- purtroppo sì, la tensione è veramente altissima. A Tel Aviv sono risuonate le sirene antimissile e oggi ricordiamo che è stato intercettato un missile anche vicino a una centrale atomica, sì, che l'ha sfiorata. Gaza da parte sua nel mirino della nuova operazione israeliana. I morti, come ricordavi te, sono 52, quindi è un braccio di ferro. È Hamas, che Israele accusa per l'uccisione dei 3 giovani coloni in Cisgiordania, non appare assolutamente intenzionata a cedere. Israele invece vuole che Hamas paghi un prezzo molto caro per questo, vuole distruggere la sua macchina militare e minaccia di estendere l'operazione, appunto, come ricordavi. Peres stasera ha detto che sono pronti ad un'azione di terra, insomma una situazione che sembra purtroppo peggiorare di ora in ora. Tra l'altro, nel libro dei fatti di quest'anno, il libro dei fatti di ADN Cronos, che voi pubblicate da tempo immemore, dagli anni 80, mi pare di ricordare, no? Questo è il libro dei fatti. È la 24esima edizione, sì. Libro dei fatti 2014, c'è poi riepilogata, per chi avesse voglia di capire davvero come è nato questo contrasto così forte, direi infinito, tra israeliani e palestinesi. Qui viene ricostruita nel libro dei fatti anche tutta la storia della formazione dello Stato di Israele. No, dal 1947, dopo la seconda guerra mondiale, dovettero un po' spartire il territorio, no? L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si legge, delle Nazioni Unite decreta la divisione della Palestina in due stati, uno arabo e l'altro ebraico, però chiaramente tra tutti i profughi palestinesi che arrivavano da stati vicini e gli ebrei che ritornavano, quelli almeno superstiti da quel genocidio immane che ci fu con il nazismo, la seconda guerra mondiale, e chiaramente da lì inizia questo conflitto. Forse la responsabilità è di allora, di chi divise forse malamente questi due stati. Uno non è ancora uno stato alla fine, uno è l'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania, e poi c'è questa striscia di Gaza che è amministrata da Hamas, no? Dal movimento islamico. Certo, è evidente che qualcosa non ha funzionato. Mai come in questa circostanza possiamo dire che è importante conoscere il passato per capire cosa sta accadendo ancora oggi nel presente. Si ricordavi, grazie, ti ringrazio, nel libro dei fatti c'è tutta la cronologia dal secondo dopoguerra in poi, e quindi ci accorgiamo di quanto sia accaduto, di quanto la situazione sia stata esplosiva proprio nel corso degli anni, molto spesso. Il libro dei fatti serve anche a questo, in un mondo che cambia rapidamente restano i fatti fissati in questa pubblicazione, che è un po' il fiore all'occhiello dell'ADN Cronos. Mi dispiace parlarne in una circostanza tutto sommato triste, però in effetti ma aiuta a comprendere la storia, perché troppo spesso ci si dimentica che così a livello di opinione pubblica qual è l'origine della situazione attuale. È importante che qualcuno, certo, lo fissi, che si possa andare lì per ricordarselo, a rileggerlo. Quindi nel libro dei fatti 2014, Alessia Lautone, io ti ringrazio e ti saluto e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a te. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, abbiamo parlato adesso del Medio Oriente, della tensione che sale sempre più, e poi per quanto riguarda le altre notizie, le riforme che saranno in aula domani, e poi ancora possiamo, tra pochissimo parleremo delle dichiarazioni di Draghi, e poi per i mondiali, ve l'ho detto, ci sarà a breve, tra una decina di minuti, la partita Argentina-Olanda. Però adesso spazio all'Europa. Europa 24 notte. C'è sempre Sergio Nava in questi giorni a parlare. Sergio. Ciao Sergio. Ciao Roberto. Sta seguendo i vari eventi e c'è stata questa due giorni di vertice informale, come si dice qui a Milano. Ieri si è parlato in particolare di immigrazione, oggi invece al centro c'era la questione giustizia. Sì, no? Oggi è stato un consiglio un po' più light, un po' più leggero. C'erano i ministri della giustizia, hanno discusso, più che deciso, discusso di protezione dei dati, per innalzare il livello di protezione dei dati in Europa per chi va su internet. Hanno soprattutto discusso dell'istituzione di una procura europea, un procuratore europeo che dovrebbe indagare soprattutto sulle frodi fatte all'Unione, e poi anche hanno parlato di semplificazione burocratica. È stato comunque abbastanza leggero come consiglio, nessuna di fatto la decisione. Così ne abbiamo approfittato per chiedere al ministro della giustizia Orlando, che ha presieduto questo vertice informale, novità sulla riforma della giustizia, perché alla fine l'Italia parla molto in Europa di riforme strutturali. Da tempo. Questa è la riforma della giustizia. È una riforma strutturale perché soprattutto la giustizia civile, e lo dirà tra poco Orlando, è importante per ridurre i tempi per le imprese soprattutto. E quindi per attirare investimenti dall'estero. Esatto. Allora sentiamo Orlando. Ho spiegato quali siano gli obiettivi che sono già stati indicati all'opinione pubblica, ne approfitto per dire che in questi giorni, mentre si preparava il vertice, abbiamo completato la pubblicazione delle proposte che riguardano la giustizia civile, che sono accessibili sul sito del Ministero della Giustizia. Abbiamo però sottolineato anche negli incontri bilaterali come riteniamo che soprattutto la riforma della giustizia civile, complessivamente la riforma della giustizia, ma quella civile in particolare, sia un tutt'uno con l'insieme di riforme strutturali che il nostro Paese deve realizzare per riacquisire competitività. Come spesso si ricorda, la lunghezza dei procedimenti civili, la incertezza delle controversie tra privati nel nostro Paese è una delle cause di difficoltà per le imprese ed è anche una delle cause di diminuzione degli investimenti stranieri nel nostro Paese. Chiaro, insomma, l'ha riconfermato Orlando. Senti, invece, passando a questioni europee, vedevo una dichiarazione di Draghi che parlava della necessità di una governance europea per le riforme. Ancora riforme, esatto. E questo è molto interessante, quello che ha detto Draghi. La parola d'ordine ormai, riforme. E ne abbiamo molto bisogno in Italia, soprattutto in tema di concorrenza e liberalizzazioni. Ma interessante quanto dice Draghi, quanto ha detto Draghi da Londra, in un convegno dedicato alla memoria di Tommaso Padoa-Schioppa, ha detto: occorrerebbe una governance europea a livello di riforme strutturali, poiché le riforme spesso sono impopolari e i governi, soprattutto sotto elezioni, fanno fatica a farle digerire, perché non vincolarle a un coordinamento unico, un po' come un'autorità soprastante, più che un'autorità, un coordinamento, un po' come si fa coi bilanci in Europa, in cui ci si tiene sotto controllo o si cerca di tenersi sotto controllo la vicenda. Farlo anche con le riforme, lo si dirà, magari la riforma ce la impone l'Europa, però quantomeno la si fa. Questa è un'idea nuova, originale, vediamo cosa potrà avere. Sì. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Invece parliamo di calcio. Prima di affrontare, diciamo, con previsioni la partita che ci sarà tra poco, vorrei parlare con Andrea Colombo, che saluto. Buonasera Andrea, dottor Andrea Colombo. Ciao Andrea, buonasera Andrea, ciao, psicologo dello sport, al quale vorrei chiedere sulla disfatta del Brasile di ieri. Allora, si è parlato tanto delle lacrime dei giocatori brasiliani, dell'ansia da performance. Ieri erano completamente inebetiti, una disfatta del genere non si è mai vista, un 7-1, l'ultimo gol fatto proprio così per decenza all'ultimo momento. Ma si può, a quei livelli, con i miliardi che guadagnano questi giocatori, con la vita che fanno, che è inimmaginabile per persone normali, e poi comportarsi, diciamo così, come dei ragazzetti, non per mancanza di macismo, che è proprio una cosa deprecabile, ma nel senso di essere all'altezza di quello che fanno e per il quale sono pagati non poco? Beh, direi di sì, nel senso che a tutti capita, ovviamente ci sono sicuramente alcuni momenti in cui è più delicato sbagliare, però a tutti, che noi guadagniamo un milione di euro, 2 milioni di euro o 5.000 euro, a tutti capita di sbagliare, quindi può capitare anche a chi è pensato, o ci immaginiamo che sia soltanto un macio, un supereroe, gli eroi dello sport, di sbagliare naturalmente. Ieri ovviamente sbagliare di fronte a una nazione intera che aspettava naturalmente una rivalsa, è stato doloroso, e quindi è venuta fuori un po' tutta questa fragilità anche dei campioni, perché spesso è così, spesso dietro ai campioni più forti si cela una forte fragilità di carattere. Ieri secondo me abbiamo un po' assistito, cioè in quei 5 minuti in cui veramente un minuto un gol, abbiamo così assistito a come si va assolutamente in bambola, quindi l'ansia da prestazione e poi al dolore che ne consegue, l'umiliazione. Però Andrea Colombo, posso capire uno, due che abbiano qualche defiance, ma tutti quanti, cioè sette gol, quella che è considerata da lungo tempo una delle squadre più forti del mondo, un evento un po' particolare, no? Mi sembra che tutti lo abbiano notato questo. Questo è sicuramente stato un po' sotto gli occhi di tutti, ovviamente prendere 7 gol per una squadra come il Brasile, ma soprattutto prendere quei 5 gol nell'arco di 20 minuti, tre, forse nell'arco di tre minuti, è una cosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Può avere sbagliato l'allenatore, Andrea? Può aver sbagliato, non so, a prepararli a questo evento così teso, non lo so. Ma l'allenatore può sicuramente aver avuto le sue colpe, come probabilmente anche i singoli individui possono aver avuto le loro colpe, però esattamente come quando all'interno di un gruppo la somma degli individui fa in il positivo più, cioè un gruppo diventa di più della somma dei singoli individui, allo stesso modo lo si può avere anche come effetto negativo, cioè nel momento in cui tutti sono in bambola c'è un momento in cui il gruppo alimenta questa fragilità, questa debolezza e tensione all'ennesima potenza, ed ecco la disfatta. Esatto, e c'è una tale paura di sbagliare in tutti che proprio le paure di sbagliare, le tensioni sono contaminano insomma. Essenziali. Bene, grazie Andrea Colombo, grazie di questa grazie a voi, buonasera. Di questa spiegazione, giustificazione in qualche modo anche dei brasiliani. Giovanni Capuano, abbiamo un minuto per dirci cosa succederà tra poco. Ciao Giovanni. Ciao, tra pochi istanti succede che ci sono Olanda e Argentina, a proposito di tensione per la paura di sbagliare, sono due nazionali che non possono sbagliare perché entrambe sono di fronte alla storia. L'Olanda per la seconda grande generazione degli olandesi, che però non avrà un altro mondiale, quindi o questa sera va in finale oppure saluta, e l'Argentina con Messi, che ha l'obbligo, un po' come i brasiliani avevano l'obbligo di vincere, lui ha l'obbligo di diventare come Maradona, e se lo deve fare in questo che è il suo mondiale, per età, per mille motivi. Quindi, e quindi la verità è che questa sera assisteremo almeno a un altro dramma sportivo, vedremo magari non delle proporzioni di ieri, speriamo, però assisteremo a un dramma sportivo. Saremo a vedere, grazie Giovanni Capuano, noi ci sentiamo tra poco.